La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:33 primi esattamente in questo secondo. Mi pare che oggi il This is the End torni di nuovo di particolare attualità, se solo avete dato un occhio a quello che succede. Siamo in diretta, ovviamente, grazie per l'ascolto, in diretta in podcast, ma se avete dato un occhio alle cronache da Montecitorio da stamattina, This is the End potrebbe essere oggi, This is the End sulla legge elettorale neoproporzionale col tetto del 5%, su cui c'era la grande convergenza tra Forza Italia, PD, 5 Stelle e anche della Lega, pare, vedremo, perché stamattina voti segreti, sui voti segreti che naturalmente sconfessano su qualche particolare, in particolare qui la questione era l'eccezione per il Trentino Alto Adige, il PD è subito insorto accusando i 5 Stelle di usare lo strumento dei franchi tiratori, Fiano è il relatore, ha detto in aula della legge, ha detto la legge elettorale è morta, vedremo, io cosa volete che vi dica, l'imprevedibilità politica è molto elevata, vediamo se riescono in questo nuovo capolavoro, cioè di a quel punto dover ripiegare sulla legge elettorale che è frutto delle due pronunzie della Corte Costituzionale per Senato e Camera, e diventeremo a quel punto l'unico paese al mondo in cui per incapacità della politica di cooperare e convergere e per la mancanza di idee chiare, inventando ogni volta una diversa legge elettorale che non è uguale al mondo, perché questa noi stiamo facendo questo da 20 anni, quando sarebbe più facile adottarne una, secondo diverse opinioni, può essere il doppio turno maggioritario francese con la soglia tra primo e doppio turno, quello britannico, quello che volete voi, ma prendiamone una che già ha dato risultati e la importiamo qua. No, ce ne inventiamo ogni volta di diverse, ma alla fine l'esito qual è? Fine di questa introduzione, è che diventiamo l'unico paese avanzato al mondo in cui le leggi elettorali le scrive la Corte Costituzionale e non i partiti e la politica, il che, se volete, almeno a mio giudizio, è la miglior riconferma della mancanza di ABC da parte della politica attuale italiana. Ci metto tutti i sottoscrittori di questa convergenza, perché se convergi la tieni, ma la scrivi bene. Ogni volta la scrivono male, questo è il punto. Va bene, non parliamo di questo, ma parliamo di un'altra elezione che invece è in corso in queste ore e che è di grande importanza, ovviamente, per non solo per il paese in cui si sta votando, ma per l'Europa. Stiamo parlando delle elezioni che sono in corso in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Elezioni anticipate che il 18 aprile ha sorpresa per lo stesso Regno Unito e la sua politica e per l'Europa, per il mondo, vennero convocate dal premier Theresa May. Perché vennero convocate? Perché Theresa May era convinta, i sondaggi così dicevano allora, di poter realizzare una straordinaria vittoria, una vittoria landslide, un grandissimo miglioramento della maggioranza non troppo elevata che anche lui a sorpresa però aveva raggiunto David Cameron nel 2015. E quindi Theresa May, dopo la Brexit, dice: io voglio un mandato pieno per essere il primo ministro britannico che deve trattare per la Brexit, e per questo convoco elezioni l'8 giugno. Ora, siccome nel frattempo le regole sono cambiate anche in Gran Bretagna, prima era pressoché automatico, cioè il premier era titolare della data di elezione, lo chiedeva alla regina, la regina dava l'ok. Per la prima volta è entrato invece un set di regole nuove, ci vuole il voto di 2/3 in Parlamento. Sorpresa, intanto il partito laburista di Corbyn votò a favore delle elezioni anticipate anch'esso, perché Labour, sapete, sulla Brexit non ha preso una posizione per il Remain proponetta. Corbyn è anche su questo un leader molto discusso, perché a lui l'Europa sembra l'Europa dei tecnocrati e dei banchieri. Risultato, votarono a favore, si vota l'8 giugno. Ma da aprile a oggi molto è cambiato, i cicli politici sono volatili in Europa, e questo forse dovrebbe essere una riflessione che vale anche per i partiti politici italiani che tifano per le elezioni anticipate, credendo che i risultati siano quelli dei sondaggi di oggi. Di qui al voto poi non si sa mai cosa può avvenire, ed è avvenuto anche puntualmente nel Regno Unito, perché mentre le amministrative che si sono poi tenute a maggio in realtà confermarono in pieno le attese di una vittoria che si profilava molto ampia per Theresa May e per i conservatori da lei guidati alle politiche, poi nelle ultime 3 settimane la May è andata in picchiata e ha iniziato a perdere un mucchio di punti nei sondaggi, fino ad arrivare ieri, giorno prima delle operazioni elettorali, a una situazione mai avvenuta recentemente, insomma, negli ultimi 20-30 anni nel Regno Unito, con sondaggi che riducevano il vantaggio dei conservatori. Chi diceva 12 punti da più di 20 che dovevano essere, chi ha detto 3 punti YouGov, chi ha detto un solo punto, chi ha iniziato a dire no, la realtà è che potrebbe anche avvenire in caso di alta partecipazione al voto, di alta partecipazione dei giovani, in cui il voto a maggioranza è per i laburisti, potrebbe avvenire anche che in realtà il governo non sia più formato dalla May, ma sorpresa da una convergenza degli eletti laburisti a quel punto, dei liberal democratici e degli eletti in Scozia dello Scottish National Party. Vedremo, lo potremo capire solo stanotte e domani mattina. Certo è, e qui finisce la mia introduzione, che bisogna capire come e perché il sogno di Theresa May, che voleva in realtà aprire una pagina, un'epoca storica diversa, il Partito Conservatore sognava un programma completamente diverso dalla Thatcher, molto più sociale, se questo sogno è già finito. Uno, due, che cosa cambia per la Brexit? Una campagna elettorale che ha parlato pochissimo della Brexit. Se oggi sono molti giornali britannici pubblicano l'andamento nei sondaggi dell'attenzione ai temi nel voto, Brexit è diventato l'ultimo, e quindi ne sappiamo quanto prima sulla chiarezza dell'impostazione conservatore e dei conservatori e dei laburisti sulla Brexit, poco o niente, quindi rimaniamo nella confusione più totale. Però su questo un punto è chiaro: nei 12 punti che aveva lanciato Theresa May, il 12° doveva essere quello di una cool Brexit, cioè né hard né soft, ben trattata e nell'interesse comune. Beh, suo malgrado la Brexit è diventata in realtà leader della hard Brexit, dopo il leak delle parole di Juncker. Lei ha indurito la posizione dicendo meglio nessun accordo che un cattivo accordo. Sono parole che avrebbe potuto pronunciare Nigel Farage, il leader degli UKIP, che è fuori dalla scena politica. Molti si aspettano che i voti degli UKIP vadano ai conservatori, vedremo anche questo. Ma in buona sostanza la campagna elettorale è invece andata sulle politiche sociali, sulla sanità, sui temi della politica interna e soprattutto sul ruolo dello Stato, su cui aveva puntato per rubare voti ai laburisti e Theresa May, ma invece è avvenuto il contrario. E malgrado un programma iperstatalista, ipernazionalizzatore, sognatore, utopico di Corbyn, per questo molto criticato da metà quasi dei suoi eletti in Parlamento, in realtà Corbyn è riuscito, vedremo quanto poi vicino al successo, ma a recuperare gran parte dello svantaggio che aveva all'inizio. Domanda: cosa cambierà per l'Europa e cosa cambierà per noi? Lo vedremo, contate i seggi, ma è comunque un fenomeno molto interessante, quello di un probabile nuovo enorme errore dopo quello della convocazione da parte di David Cameron del referendum. David Cameron era per restare e perse, in questo caso elezioni anticipate convocate per stravincere, e oggi alla stravittoria di Theresa May non crede quasi più nessuno. Allora, nel frattempo vi do due rapidissimi aggiornamenti sulla legge elettorale. La legge elettorale torna in commissione per evitare nuovi incidenti in aula, e quindi la richiesta del PD di tornare in commissione è passata nell'aula della Camera con un voto ad hoc, come aveva richiesto il PD. Rosato, il capogruppo del PD, ha iniziato immediatamente a cambiare però tono, aggiungendo un altro argomento, perché ha detto: mi chiedo se a questo punto ci sia la maggioranza di governo. Cioè il PD fa chiaramente intendere, saltata la legge elettorale bisogna andare a votare subito con il consultellum, quindi senza neanche aspettare settembre. Dopo questi aggiornamenti, ripeto, andiamo con il primo ospite per parlare di che cosa sta avvenendo in Gran Bretagna, e io ringrazio quindi Giovanni Caccavello, che è un ricercatore di Epicenter, che è un centro di ricerca economica e politica paneuropeo, e che collabora di Econopoli, il blog del Sole 24 Ore, di essere collegato con noi. Naturalmente lui sta a Londra, dove lavora. Grazie di essere con noi, Giovanni. Grazie a te, Oscar. Buongiorno a tutti. Che dicono a operazioni in corso gli osservatori? Perché io ho descritto una forbice che in realtà è senza precedenti e nessuno è in grado di capire come finisce. Confermi che è così o ci sono opinioni diverse da stamattina? Ci sono opinioni abbastanza diverse, alcuni appunto, come giustamente stavi introducendo tu, credono che ci possa essere addirittura una vittoria dei Labour o comunque di questa coalizione alternativa multicolor domani mattina, mentre alcune consultancy come ad esempio Capital Economics una consultancy che si trova a Londra, prevedono, diciamo, sostanzialmente una vittoria dei conservatori. Non sarà probabilmente una landslide victory, quindi come inizialmente Theresa May prevedeva o voleva, ma dovrebbero comunque riuscire ad ottenere una maggioranza maggiore rispetto a quella ottenuta da David Cameron nel 2015. E quindi bisogna vedere e contare i voti. Ma che cos'è che ha determinato la difficoltà crescente fino al punto tale da dover rifiutare di andare in televisione di Theresa May? Secondo, per quanto mi riguarda, in parte è avvenuto anche a causa del manifesto, forse principalmente a causa del manifesto del Partito Conservatore. Un manifesto in cui ha lanciato questa idea del conservatorismo sociale, cioè lontano anni luce dalla Thatcher. Esattamente, Theresa May è tornata praticamente ad un conservatorismo anni 50, anni 60, quindi conservatorismo sociale pre-Thatcher. E questo non è piaciuto a molti conservatori o comunque elettori che guardano al Partito Conservatore come uno dei baluardi del libero mercato. Oltre a questo, ha poi influenzato molto, o meglio, hanno influenzato molto alcune uscite di Theresa May su politiche sociali. Quindi, subito dopo aver pubblicato il manifesto, Theresa May ha poi fatto alcune dichiarazioni antitetiche al manifesto stesso, e quindi questo ha creato ulteriori dubbi Una in particolare è su. quella della Dementia Tax, cioè per capirci, spingersi fino a levare la casa alle famiglie di anziani lungodegenti per rifarsi dei sovraccosti del Servizio Sanitario Nazionale fino all'accompagnamento alla morte. Ed è una cosa che contraddice l'idea del manifesto sociale della May, sulla quale lei è andata in un imbarazzo totale quando in televisione l'intervistatore Paxman della BBC l'ha martellata su questo, che ha fatto incazzare ovviamente sia gli elettori incerti, ma anche i conservatori sociali di cui chiedeva il voto. Esattamente, esattamente, hai riassunto benissimo quanto è successo. In più, appunto, molti si, diciamo, come ad esempio il sottoscritto, che non potrà votare, ma i miei colleghi si trovano in difficoltà durante queste elezioni perché, come giustamente stavi introducendo tu prima, lo Stato è tornato, quindi tutti i partiti principali si trovano a correre su piattaforme che prevedono un maggiore interventismo statale. E quindi tutti coloro che principalmente votano Partito Conservatore e avevano appunto un'idea di libero mercato, che quindi idee thatcheriane con una riduzione dell'intervento statale, quindi riduzione della spesa, riduzione delle tasse, si trovano a non avere nessuno che Tanto vale invece guardi a della brutta loro. copia votare l'originale, cioè Corbyn, che almeno è chiaro, vuole rinazionalizzare le ferrovie, Esattamente, vuole rinazionalizzare tutto. Tanto vale, uno si butta da quella parte lì. Ha avuto anche un peso la polemica, perché lei, come ex responsabile del Home Department, ha naturalmente messo la firma sui tagli alle forze di polizia, visti gli attentati? in parte sì, mi aspettavo sinceramente un Corbyn più aggressivo da quel punto di vista lì. Infatti, Corbyn subito dopo, probabilmente anche dovuto al loro modo di fare politica diversa rispetto a quello italiano che conosciamo bene, Corbyn ha evitato di calcare la mano, ma avrebbe potuto anche diciamo, puntare sul fatto che Theresa May, oltre ad aver tagliato appunto questi 20.000 Poliziotti. 20.000, poliziotti, forze dell'ordine, è stata poi per l'appunto lei come ministro degli interni per 6 anni, quindi dal 2010 al 2016. Abbiamo avuto la sua strategia, quindi effettivamente quando Theresa May ci ha riferito di voler cambiare strategia, ha Stava parlando di se praticamente, stessa. esatto, ha messo la mea culpa, la cosiddetta mea culpa, quindi ha detto io mi fermo e dobbiamo rivedere le mie stesse strategie che non hanno funzionato. Allora, torniamo tra un minuto, intanto traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alla versione di Oscar per parlare delle lezioni inglesi. Sono in corso, come vi abbiamo rispiegato, lo scenario è completamente diverso da quello che portò Theresa May a metà aprile a convocarla, pensando a una stravittoria e probabilmente di essere anche alla testa di l'inizio di una nuova pagina storica. Voleva rifondare i fondamenti, il manifesto conservatore rispetto a quello della Thatcher. Le cose sono andate, pare, molto diversamente. Non sappiamo alla fine, visto i sondaggi che hanno una forbice molto ampia del risultato, fino a prevedere che potrebbe addirittura governare i laburisti insieme agli indipendentisti scozzesi e ai liberaldemocratici. Però in buona sostanza Theresa May ha visto le cose andare diversamente da quanto si aspettava in campagna elettorale. Molte voci critiche hanno iniziato a levarsi anche al suo stesso interno del partito poco prima del voto, quindi. Ma ci ha raggiunto anche Ferdinando Giuliano, che conosce bene il Regno Unito perché ha lavorato anche anni al Financial Times, oggi editorialista di Bloomberg. La domanda mia nel ringraziare Ferdinando Giuliano di essere qui con noi è questa: per come hai seguito le cose, innanzitutto anche una tua opinione su cosa ti aspetti che sia il risultato finale, ma poi perché, a differenza delle aspettative, visto che era la richiesta di un mandato chiaro e netto per la Brexit, alla fine in campagna elettorale la Brexit se ne è parlato così poco, ne sappiamo come prima, cioè molto poco, tanto sia dell'impostazione dei conservatori che di quella laburista. Ferdinando. Buonasera a tutti. La prima cosa da dire è che secondo me il risultato potrebbe non essere così diverso dalle aspettative iniziali. Questo perché alla fine comunque Jeremy Corbyn, il leader di estrema sinistra che guida i laburisti, non sembra stare accendendo gli animi dei britannici più di tanto. Il suo programma è comunque visto come troppo estremista, e abbiamo continuato a vedere in queste settimane i conservatori andare a fare campagna elettorale in seggi che tradizionalmente non avrebbero pensato di vincere. Questo indica che, se non altro, i loro sondaggi sono ancora positivi, quindi o sbagliano completamente i sondaggi dei conservatori, oppure è possibile che appunto la May vinca e con un margine maggiore rispetto a quello che aveva nello scorso Parlamento. Ciò detto, però, quindi tu dici la cosa più probabile è che comunque che faccia meglio di May e faccia meglio di David Cameron del 2015. Questo è quello che, diciamo, alla fine molti analisti si aspettano. È vero, i sondaggi sono un po', come appunto già ricordato, difficili da decifrare, però questo sembra essere il consenso. Ciò detto, è evidente che la campagna elettorale non è stata una buona campagna elettorale per Theresa May. Prima di tutto perché appunto il grande problema della Brexit, il grande assente, se si vuole, di questa campagna elettorale è rimasto, diciamo, evidente, è rimasto evidente che i conservatori non hanno un piano particolarmente entusiasmante. Perché? Perché di fatto è estremamente difficile in questo momento promettere di poter raggiungere qualcosa di positivo. Dall'altra parte c'è un'Unione Europea che comincia a snocciolare le sue richieste molto precise, dai diritti ai cittadini europei nel Regno Unito al conto che i britannici dovranno pagare per uscire dall'Unione Europea. E tutto questo va appunto discusso prima di arrivare a quei famosi accordi commerciali che stanno tanto a cuore ai britannici. Quindi le promesse impossibili della campagna del Brexit restano impossibili e sono quindi molto difficili da soddisfare, da ripetere in campagna elettorale. Ma ci sono anche dei limiti della persona di Theresa May. Quello che secondo me è stato evidente da questa campagna elettorale è che lei rimane soprattutto un ministro dell'interno, che è il ruolo che lei ha diciamo avuto per anni prima di essere proiettata improvvisamente in cima al Partito Conservatore, in cima al Paese come primo ministro. La vediamo sempre molto a suo agio in quei momenti terribili che purtroppo hanno caratterizzato queste elezioni, degli attentati a Manchester o a Londra. È sempre molto efficace in quei momenti quando appare davanti alla telecamera a rassicurare gli elettori, ma è molto meno a suo agio quando si tratta di fare delle policy dal punto di vista economico. Ha fatto tutta una serie di retromarce, l'avevamo già visto al governo, ma anche ora sul programma elettorale, e perché è meno a suo agio, molto meno a suo agio su questi temi più complessi di politica economica. E questo, secondo me, potrebbe influenzare il suo governo negli anni, ove dovesse appunto vincere le elezioni, anche appunto nel caso in cui dovesse vincere. Dicono anche, ti chiedo conferma però, che in realtà di tecnicalità di tutto il mondo delle istituzioni europee, di che cosa significhi la roadmap di qui al 30 marzo 2019, 2 anni di trattative previste dall'articolo 50, che è stato il primo statista europeo a chiedere nell'applicazione, lei non ne sappia quasi nulla, che sia molto non a suo agio su questo tema europeo. C'è sicuramente quello, ma c'è anche un tema di consiglieri. Uno dei, diciamo, delle critiche che le viene mossa in questo momento è avere un gruppo molto ristretto di consiglieri fidatissimi che vogliono tenere tutte le negoziazioni un po' in pugno, in mano, e questo esautorando di fatto per esempio gran parte del famoso civil service, esatto, inglese, dei ministeri. Che invece ne sanno un po' di più, per così dire. Anche di queste e che cose. Non hanno ancora una linea molto chiara. Va bene, allora intanto vediamo come va questa notte e domani mattina. Nel frattempo io aggiorno i nostri ascoltatori, i miei due ospiti, la dichiarazione di Di Maio dei 5 Stelle. Legge elettorale, ora si vada a votare e basta. Quindi scelgono anche loro la linea oltranzista del PD. Al voto subito con il consultellum, senza aspettare l'estate, eccetera, eccetera. Che Dio abbia pietà dell'Italia. Continuate su Radio 24 e appuntamento con me, Alessandro Mina, domani alle 8:20. Attenti noi due.